di poni di donia di in crisi sospette gusto ghino pori bi ci sti insisti tocca ne bo muove sa deo troppo borta mi domando chi sei un usci manca un diseo troppo borta stripa non sci un disbica istanti chi mina rabo bai cali boci dai da nai e ma bolli tenna canta scetti gente onesta ma c'è sti scetti chi mi terra bolli festa festa io a sola barra in uno sprigo decisioni spigo a risposta che viene in testa con cambia mi digo e sul destino mi indivrigo vivo sa giornata vizia cando su signori la sabio ma sombra mi ondi esti esteresti fogo cesti troppo fumo entro su goro chi non mi bebessi ma raccontessi un'altra volta zona gusta musica di volta s'anima in questa dimora onde s'anima mia chi ni sodeo non ci spiego chi di chi seo chi ni sodeo mande chi seo ma i testi chi seo chi seo chi seo chi seo chi seo onde s'anima mia chi ni sodeo non ci spiego chi di chi seo chi ni sodeo mande chi seo ma i testi chi seo chi seo chi seo chi seo chi seo ci sono che cosa schivi di storia schivi visto scisi 22 anni smalarius in questo mondo de crisi agli di Stefani sa vida se ne dipo questa musica brullasa nuda sa a tutte nuesi soli cuara suara bento fido a cock chi ne so de foras domine mezzo a mezza sprenasi su de or si guananti in dos dopo morto torra tipo crow a tutte sombra niedu che sa vigi po di spingi mondo slow prendo chi questo mondo in fondo gira tondo chi banda passo spanto a tipo strangio fiero che si sarta manta pochini porta frio in questa stanza chi vanta s'abbondanza cando pago scarsa se eleganza una tasse aba pochini porta stili de bivi non s'arrocci li e toccassi un fili su coro bandara a chi di mia ribocchio beni isatro a barri in ti antre su mondo chiaro endi onde s'anima mia chi ni sodeo non ci spiego chi di chi seo chi ni sodeo mande chi seo ma i testi chi seo chi seo chi seo chi seo chi seo onde s'anima mia chi ni sodeo non ci spiego chi di chi seo chi ni sodeo mande chi seo ma i testi chi seo chi seo chi seo chi seo chi seo.